Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica da Gegè Telesforo, buona domenica al nostro Francesco Tromba. Questo è il soundcheck di Radio 24 che torna puntualissimo come sempre per presentarvi grande musica, e vi anticipiamo che questa sera, nella seconda parte, quella che inizierà alle 19:15, avremo nostro ospite collegato con noi via Skype, il maestro Ben Sidran. Abbiamo già parlato con suo figlio Leo oggi, eccellente producer di fama lì a New York, e questa sera parliamo invece con il suo papà per chiudere il cerchio con la famiglia Sidran. Anche Ben ha prodotto un album nuovo, si intitola Blue Camus, e quindi lo presenteremo questa sera qui al nostro soundcheck, recuperando questa intervista che doveva andare in onda alcune settimane fa, e invece Radio 24 si prese anche il nostro spazio per commentare una partita per me drammatica, ovvero la sconfitta della Roma con la Juventus. Una giornata terribile per me, ma ce ne sono state altre peggiori. E comunque col calcio non si può mai dire, mio caro Francesco, anche tu tifi Roma, e quindi sai che pur avendo una squadra forte, con la palla che è rotonda, bravo, vedi, non ti sfugge nulla, con la palla rotonda non si sa mai. Sì, è sempre impossibile riuscire a prevedere. Sì, poi noi che andiamo in onda a quest'ora viviamo un occhio sullo schermo, lo buttiamo, no? Sì, bisogna tanto tenersi aggiornati per capire l'andamento del mercato, ma non quello economico, del mercato proprio calcistico, per vedere le cose come vanno. Scusate questa nostra digressione sul calcio, andiamo alla musica. Sei operativo? Operativo. Al allora, di cosa vogliamo parlare e quale artista vogliamo presentare? Parliamo di Jonathan Butler. Finalmente, apriamo la puntata con qualcosa di solare. Jonathan Butler, nato e cresciuto nella prima parte della sua esistenza lì in Sudafrica, viene proprio da Città del Capo? Sì, da Città del Capo. Classe di ferro, 1961, sono nati un sacco di eccezionali musicisti nel 1961. Tra cui anche? Anch'io, è la verità. E allora, no, vabbè, Jonathan Butler. Sì, nato nel 61 a Città del Capo, si trasferisce in Inghilterra, però la sua musica è assolutamente afroamericana, un soul tipicamente californiano. Da cosa possiamo riconoscere che il sound è californiano? Dal sole che sembra spuntare fuori proprio da ogni brano. Bravo, in qualche modo è così, sì, perché quando tu vivi e lavori in California, in un bellissimo studio che si affaccia sul mare, hai tutti i musicisti sorridenti, fai una bellissima colazione, un bel po' di ragazze sulla spiaggia e in perizoma, non puoi che essere felice, e la musica che viene fuori è assolutamente sorridente, così come quella di Jonathan Butler, album nuovissimo per lui intitolato Living My Dream, e lui il sogno lo sta ancora vivendo, perché fa musica speciale, è un grande musicista. Il brano è proprio quello che dà il titolo alla produzione, Living My Dream. Jonathan Butler apre il soundcheck di Radio 24. This is sempre avuto il debole per questo signore sudafricano, classe di ferro 1961, si chiama Jonathan Butler, chitarrista, cantante, compositore, album nuovo registrato in California intitolato Living My Dream, e questo è proprio il brano che dà il titolo a questa solare produzione discografica. bellissima, devo è dire. È vero, piacevole. Sì. Poi mi sembrava anche l'album giusto per aprire una domenica, e con questo sound in qualche modo il nostro umore ne viene fuori carico, pronto anche per affrontare eventuali risultati negativi della nostra squadra del cuore. Sì, mette l'allegria, mette anche allegria. Nonostante le tragedie eventuali sportive. Esatto, non ne parliamo. Allora, ci sono gli esperti a Radio 24 sì, che parleranno di calcio. Jonathan Butler è in concerto, però purtroppo negli Stati Uniti, è vero? Sì, purtroppo lì. So che dovrebbe fare un concerto a Washington DC, perché sì, ho parlato proprio con un amico che vive lì e mi ha detto vado a vedere Jonathan Butler. Io gli ho detto guardo il nuovo disco, lo presento in radio. Ha fatto addirittura 4 giorni, siete ancora il tempo questa sera per l'ultima. Ah, quindi questa sera l'ultimo spettacolo di Jonathan Butler a Washington DC, sì. Poi dove va? Poi il 15 sarà a Buffalo, nello stato di New York. Il 16 a Boston. E in Italia? In Italia purtroppo no. Magari, per ora no. È troppo solare per affrontare l'Italia nel periodo invernale. No, non sarà in Italia. Non sarà in Italia. Che cosa volevi dire di Jonathan Butler? Che non si è dimenticato da dove è venuto, nel senso che lui è nato povero in Sudafrica, ha toccato proprio la povertà con tra l'altro da una famiglia numerosissima. Sì, aveva altri 12 fratelli. Porca miseria, il papà si è divertito un sacco. Sì, ha fatto una squadra di rugby. Praticamente. E allora non si è dimenticato delle origini? Sì, ha creato una fondazione in Sudafrica per aiutare i ragazzi poveri nelle aree disagiate, per educarli tramite la musica. Ma questa è una cosa bellissima. Vogliamo suonare un altro brano? Sì, dai. Allora ti faccio sentire Song for You, che ha un andazzo un po' reggae, un po' no. Jonathan Butler al soundcheck. Every day it's the same routine, on my way to the studio. Here you are jogging down the street, look at you move, there you go. Really want to introduce myself, but you can't hear me now. Don't wanna make a fool of myself, you knock me off my feet. Soundcheck. Il suono della musica. Originale di Sharon Jones and the Dub Kings dal nuovo album, brano intitolato Long Time, Wrong Time, per questa ragazza che sa stare sul palco, un vero animale da palcoscenico, che con i suoi Dub Kings sta per sbarcare in Italia per un bellissimo concerto fra qualche giorno a Milano. Esattamente dove, Francesco? Ai Magazzini Generali, l'11. Dopodomani. È da non perdere allora Sharon Jones ai Magazzini Generali. Io l'ho conosciuta diversi anni fa a Umbria Jazz, ma col tempo, pur puntando a un suono molto originale perché si rifà al passato, insomma dal vivo spopolano questi ragazzi. Sì, ha un'energia e una grinta veramente invidiabili. Ci sono tanti concerti nei prossimi giorni nel nostro paese, e vi ricordiamo un festival splendido proprio in corso in questo periodo, Bologna Jazz Festival, con tante star per gli appassionati del genere. Sì, il 10 e l'11 ci sarà il trio di Steve Kuhn, il 10 sarà a Ferrara, invece l'11 a Bologna alla cantina Bentivoglio, e il 12 Robert Glasper con i suoi Experiment, da non perdere, sarà a Bologna al Bravo Caffè. E infine Charles Lloyd col suo quartetto. Ecco, nel quartetto c'è anche un pianista favoloso della nuova generazione come Gerald Clayton. Esatto, venerdì 14 novembre sarà al Teatro Arena del Sole. Insomma, sono tanti i concerti organizzati quest'anno per il Bologna Jazz Festival. Vi consiglio di andare a visitare le pagine del festival in internet per prenotare la vostra partecipazione nei vari club. La cosa bella è che i club in questo periodo utilizzano le grandi location, i teatri bellissimi e poi anche i piccoli club. Infatti sarà interessante andare al Bravo Caffè, dove io ho suonato più volte, per vedere Robert Glasper. Quella è una cosa bella, che hai grandi musicisti a 20 centimetri di distanza, sì, non male. Devo dire che io preferisco di gran lunga i piccoli. L'atmosfera del club è bellissima. Allora, però c'è una grande star che sta per arrivare in Italia per un paio di concerti, mi pare soltanto due date per John Legend. Sì, sarà in Italia l'11 e il 12. L'11 sarà a Roma, al Teatro Sistina, invece il 12 si sposterà a Padova, al Gran Teatro Geox. John Legend qui in Italia è presente anche al Soundcheck di Radio 24 con questa versione live di Compare to What, un classico di Eugene McDaniels, in compagnia dei Roots, dall'album Wake Up di qualche anno fa. John Legend al Soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. The Family Soul, Fatin Dantzler e Asia Graydon, marito e moglie, in Spread the Word, una vecchia composizione dal repertorio di una super band chiamata The World, brano tratto da The Family Soul del 2003, proprio l'album che portò alla ribalta Kindred e The Family Soul, in tournée in questo periodo in Europa, e credo che siano quasi pronti per fare la loro apparizione in un bellissimo club a Londra. Sì, saranno sabato 15 al The Jazz Bar. Sai che a Londra c'è anche il Jazz Festival? Lo so, in questi giorni proprio sta per iniziare. Sì, dal 14 al 23 di novembre ci saranno grandissimi concerti. E anche lì a Londra utilizzano varie location? Sì, tra l'altro cioè, è difficilissimo scegliere dove andare, perché nello stesso giorno magari ci sono 3-4 concerti. Questa è una cosa che dispiace, perché in contemporanea ci sono più artisti che uno vorrebbe seguire. Sì. E allora che cosa possiamo andare a vedere? Ci sarà Stanley Clark. Ah, con la band, con il disco nuovo, sì, Up. Sì. Branford Marsalis. Eccolo. Jan Garbarek. Eccoci. Angelique Kidjo. Angelique Kidjo, quindi anche per il London Jazz Festival un repertorio molto variopinto e vario. Sì. Didi Bridgewater. Eccola, che poi sta per arrivare in Italia anche lei, sia al Bologna Jazz Festival che al Roma Jazz Festival, che sta per iniziare. Sì, ci sarà anche Vinicio Capossela al London Jazz Festival. Capirai! E si sarà portato l'amarone? Sicuramente. Sicuramente, dai, una bottiglia di amarone per Vinicio. Abdullah Ibrahim. Eccoci. Anche. Gli Snarky Puppy non potevano mancare, erano a Parigi quando ho suonato io la settimana scorsa. A Londra non può neanche mancare Sashal Vasandani. Ecco, bravissimo vocalist. Su questo ragazzo c'è grandissima attenzione da parte della critica americana, è considerato il nuovo crooner, il crooner della nuova generazione. E infine possiamo parlare anche di Zara McFarlane, Roy Hargrove, Franco D'Andrea. Quindi sono ci sono tutti, anche sì, il nostro Franco D'Andrea. Benissimo, questo è il programma, parte del programma del London Jazz Festival a partire dalla prossima settimana. Allora, abbiamo parlato di Kindred e The Family Soul, che fanno parte della scuderia di un'etichetta intitolata Forbidden Island, e a capo di questa organizzazione musicale lì dalla città di Filadelfia con il Philly Sound, ma naturalmente rinnovato e contemporaneo, la poetessa del neo soul Jill Scott, presente al soundcheck con un classico del suo repertorio. L'abbiamo conosciuta e apprezzata proprio per It's Love. They say I'm crazy, the way you got me open, baby. Ooh. They say I'm bugging, the way I'm time sweating your loving. Ooh. They all sit and wonder why this feeling I cannot hide. It ain't a question of pride. Soundcheck, il suono della musica. Vi ricordo, miei cari appassionati di musica di Radio 24, che nella seconda parte di oggi, dalle 19:15, avremo nostro ospite collegato via Skype, il maestro Ben Sidran, per parlare della sua carriera, ricordare momenti vissuti insieme e soprattutto per presentare il nuovo album intitolato Blue Camus, quindi un'anteprima per il soundcheck di Radio 24. E stiamo presentando i concerti in giro per l'Europa. La prossima tappa per il nostro Francesco Tromba sarà a Parigi. Cosa succede a Parigi in questi giorni? Sì, ci sarà Cyril Aimé, sì, il 9 alle Duc de Lombard, sì, e anche Paolo Nutini l'11 alle Marocchinerie, e poi ci sarà Michel de Gaioxel. Ed eccola qui, la presentiamo. Dove suona Michel? L'11 a Les Cousines, a 25 km da Parigi, in una località che si chiama Shell. Invece il 12 sarà proprio a Parigi, a Le Divan du Monde. Michel, molti, diversi album a suo nome, ma molte partecipazioni in varie produzioni, ha collaborato con i più grandi, insomma anche con Herbie Hancock, ultimamente ha lavorato con Joshua Redman, è una formidabile musicista e tra l'altro i bassisti la considerano un punto di riferimento, cioè una tecnica personale, un sound e un portamento sul groove tutto originale, tutto suo. Sì, si riconosce quando si sente. Esatto, si riconosce, e questa è una delle cose più importanti per un musicista, avere il suono, un suono che ritroviamo anche in Comet Come to Me, questo è il titolo del nuovo album, il brano, una sua composizione è Good Day Bad. Wish I knew my mama, wish I could forgive my dad. Should've known better, wish I had. Seem more good than bad. Seem more good than bad. Chiudiamo questa prima parte del nostro soundcheck ricordandovi che a partire dalle 19:15, sempre qui su Radio 24, arriverà via Skype il nostro amico Ben Sidran. È veramente un amico per me, io devo moltissimo a Ben perché mi ha dato la possibilità ormai più di 20 anni fa di vivere negli Stati Uniti e di fare musica con la sua Go Jazz All Stars. In quegli anni proprio fondò la Go Jazz Records, io ho fatto parte di questa gloriosa etichetta e vocalist della Go Jazz All Stars, e quindi con lui e grandi musicisti come Phil Woods, i fratelli Peterson di Minneapolis, il sassofonista Bob Malacod, original funky drummer Clint Stubbs, ho girato il mondo per fare grande musica, quindi sono molto legato a Ben e anche alla sua famiglia. Sento che ti manca un po' l'America. No, ma guarda, sto per tornare, mi sto organizzando per andare almeno un paio di settimane ad aprile, perché devo produrre delle cose e poi sarà divertente fare i collegamenti con Radio 24 per il soundcheck proprio da New York con tutti gli amici che abbiamo lì sparsi a destra e a sinistra. Vedo se riesco a venire anch'io, dai. Certo, basta che ti compri il biglietto, non c'è problema. Il sacco a pelo ce l'hai? Sì. Figurati se non ce l'hai. Allora, noi vi salutiamo, ci sentiamo 19:15? Sì. 19:15, quindi vi lascio con una composizione scritta a quattro mani. Eravamo proprio in macchina, andavamo da Roma a Perugia per fare un concerto insieme a Ben Sidran e ci venne in mente questa composizione, un titolo semplice che è tutto un programma, si intitola So Cool, che non è una parolaccia. two, hey, hey. Something, something, something, something. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Soundcheck, il suono della musica. Di GG Telesforo. Seconda parte del soundcheck di Radio 24 di questa domenica. Buonasera a tutti voi da GG Telesforo e buonasera a un mio carissimo amico, musicista eccezionale, pianista, cantante from Chicago, ma ormai da anni vive a Madison, la sua base operativa, dove ha realizzato tanti dischi, dove produce la sua musica e dove vive con la sua famiglia. Ladies and gentlemen, vado a introdurvi con grande piacere, collegato con noi da Madison via Skype, il mio amico Ben Sidran. How are you doing, Ben? Hello JJ, what a pleasure to be with you, man. Ah, ok Ben, senti, io sono felicissimo di avere Ben in collegamento con noi perché abbiamo un'esclusiva. Un'esclusiva perché da pochissimo è stato pubblicato un album nuovissimo per Ben Sidran che si intitola Blue Camus. Allora, Blue Camus, che cosa significa? So, tell me about this new record, Ben. Well, the first thing you should know is the world premiere is right here on your show today, because the record is for sale maybe in 1 month, but for you, immediately. Ah, grazie. Thank you very much. Quindi per noi è veramente un piacere ospitare Ben per presentare in anteprima questo album che sarà pronto in distribuzione fra un mese. And I know that the recording, so the soundtrack has been in so stored for 1 year. Yes, yes, at least. Because we started this as is like a small grooves with the four people, and then we wherever we were in the world, I would write lyrics and we'd put it together and we'd go into a studio, man. So this record was made on the road. This record was made all over the road. Sì, questo disco è stato fatto praticamente in giro. Hanno iniziato la produzione più o meno un anno fa, registrando proprio nello studio casalingo di Ben lì a Madison, con quattro meravigliosi musicisti, ma anche quattro meravigliosi amici. So, four fantastic players, but also four incredible friends. Tell me about the players. Yeah. Raccontami dei musicisti. Yes, two Petersons and two Sidrans. My friend, sì. Yeah, it's like a family. It's like a family. The Petersons, you know, of course, I've worked with them for 30 years and my son for 30 years. So it is, it's a family. It's four of us. Sì, praticamente con la sua famiglia, perché con lui ci sono i due fratelli Peterson da Minneapolis, Bill Peterson al contrabbasso, Ricky Peterson all'organo B3, e poi naturalmente c'è suo figlio Leo, che ha curato anche la produzione. So Leo now is your producer. It sounds strange to me, but it's fun. Yeah, I know, but he's so good, man. I mean, he's done the last four or five albums, and they're my favorite albums. So I'm afraid I can't fire him. He has to be my producer. Quindi anche lui è molto contento perché oramai gli ultimi 4-5 album di Ben li ha prodotti suo figlio. Io tanto per raccontarvi chi è Ben Sidran. L'abbiamo detto, musicista, cantante in attività ormai da oltre 40 anni. Sì, I'm sorry, Ben, because you are 70 years old, but you still young when you play music. Yes, I'm as young as my son, because when I'm with him and playing music, I see the world through his eyes, man. It's a, you know this, it's a wonderful thing. Sì, continua a essere giovane perché vede il mondo attraverso gli occhi del figlio, e tra l'altro il figlio oggi è una personalità in fatto di produzioni discografiche, ma non solo, lì a New York. So your son Leo now lives in New York City, is a fantastic producer doing commercials, and I think if I remember well, is an Oscar winner for the music. Yes, this is maybe, I don't know, now 15 years ago, he produced the song with Jorge Drexler that won the Academy Award for the best motion picture song. Eh sì, il figlio ha vinto un Oscar con una composizione scritta insieme a Drexler per la colonna sonora di un film, e quindi da lì la sua carriera è avviata. So tell me about the record, because I'm ready to play the music. Noi vogliamo ascoltare subito una traccia. Il primo brano che ho scelto per voi per presentarvi, Blue Camus, naturalmente un album che ha come concept proprio la visione della vita vita di Albert Camus. E il brano si intitola Rocky's Romance. Who's Rocky? Chi è Rocky? Rocky is my friend, the small dog. He's the little dog who spends all the day with me. And Rocky is in love with everything. He's in love with the world. He's in love with everybody. So he's my friend. I wrote a song for Rocky. Ebbene, questa è una canzone scritta per il suo migliore amico, ovvero il suo cane, che trascorre giornate intere con lui in studio, a passeggio e in giro per il mondo. Ben Sidran al soundcheck di Radio 24. Questa è un'anteprima. Soundcheck, il suono della musica. Why should we worry, why should we hurry on that way? Nothing is forever, kinda like the weather. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Nothing is forever, nothing less. Un arrangiamento di Ben Sidran per Solar, scritta da Miles Davis, dall'album Bop City del 1984. Ben Sidran è nostro ospite in collegamento con noi qui per la prova del suono di Radio 24 via Skype per presentarci in anteprima, perché l'album sarà pubblicato soltanto fra un mese. Blue Camus, nuova pubblicazione in quartetto, un album molto divertente ma anche un concept album con la visione della vita di Ben Sidran. Ben, you are a poet. Ah, thank you. Well, this is, you know, every jazz musician in his own way is a poet, and I have found my way. Ecco, qualsiasi musicista comunque nel suo modo è un poeta facendo musica, ma i musicisti usano le note, but you like to use words very well, not only notes, man. This is exactly right. I've developed a way to improvise with words in the same way as a jazz musician improvises with the notes. It's very similar. Ecco, è molto simile, perché lo stesso concept che si usa per il jazz, improvvisare con le note e con la musica, lui lo utilizza anche con le parole. E quindi la maggior parte dei testi scritti per questo nuovo album sono stati improvvisati, provati e poi cantati in studio. Ma Ben è anche uno storico del jazz, ha scritto tanti libri, libri bellissimi che io ho letto, importanti proprio per fermare il momento sulla storia del jazz. E fra le varie iniziative, visto che abbiamo parlato di Miles Davis, compositore di questa bellissima versione di Solar di Ben Sidran del 1984, lui ha avuto anche diversi incontri con Miles Davis. So I'm talking about Miles Davis, and I want that may you tell something about your meeting with Miles Davis for your radio show. Ha avuto un incontro con Miles Davis per la registrazione di una intervista per il suo programma radiofonico negli Stati Uniti molti anni fa. Tell me something about Miles. Well, Miles, I went to his house with the great producer Tommy LaPuma, who was working with Miles. And we knocked on the door, and the door opens to this beautiful beach house in Malibu, California. Mm-hmm. And standing in front of us, like a statue from Africa, is the great Miles Davis. And he gives Tommy a big hug, and he gives me a big hug, and he says, come in, and we spend the whole day. It was beautiful. Eh sì, praticamente si è ritrovato in California per fare questa intervista a Miles Davis insieme al suo amico Tommy LaPuma, eccellente producer della storia del jazz, e quindi Miles Davis ha aperto la porta e gli sembrava proprio una statua africana, li ha abbracciati tutti e due, è stato affabile, e quindi hanno realizzato questa intervista. Questa è soltanto una parte delle tante storie che potrebbe raccontarci Ben Sidran dopo 50 anni di carriera. And I know that now you are writing a fantastic book, a book about Tommy LaPuma's life. The life of Tommy LaPuma. It's a fantastic story. It's a story about an immigrant family from Sicily who comes to the United States. They have nothing. And within one generation, the son, Tommy, becomes the most successful and famous jazz producer in the world. Eh sì, sta scrivendo il libro sulla storia, sulla vita di Tommy Lee Puma, eccellente producer, uno dei più importanti della storia del jazz e della musica di tutti i tempi, la storia di immigranti italiani che si sono ritrovati in America e da questa famiglia viene fuori uno dei più dei producer discografici di successo della storia della musica. Torniamo all'album di Ben Sidran, il brano si intitola Wake Me When It's Over e questa canzone è splendida. Ben Sidran al soundcheck di Radio 24. Wake me when it's over. Tell me when it's real. Shake me when we get there. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. If you collapse flying high cause the monkey bopped you, I'm telling you there's nothing else you can do. You gotta let him find you a place where you can level your head in the mountains. Plenty of open air. I was real relaxed at Camarillo. Yes indeed, it was groovy in there. If you collapse flying high cause the monkey bopped you, I'm telling you there's nothing else he can do. You gotta let him find you a place where you can level your head in the mountains. Plenty of open air. I was real relaxed at Camarillo. Yes indeed, it was groovy in there. Eh sì, qui ci ritrovammo insieme a Ben Sidran quando produceva i dischi per la Go Jazz Records lì al Paisley Park di Minneapolis, centrale operativa del signor Prince, per realizzare un album di Phil Upchurch bellissimo. Qui in questa versione di It Was Grooving There, ovvero Relaxing at Camarillo, tema scritto da Charlie Parker con il testo di John Hendricks, cantato da Ben Sidran e poi il solo di chitarra di Phil Upchurch, il sassofono tenore di Bob Malak, un piccolo solo dischetto di un paio di chorus che realizzai proprio in studio con loro e la batteria di Michael Bland, che allora era il batterista di Prince. Mi dispiace tantissimo perché il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato per questa seconda parte dedicata al jazz, ma Ben Sidran è sempre in collegamento. So Ben, do you remember the experience at the Paisley Park with Prince? Oh, absolutely. Well, you know, Prince, he was there, but you would see him like a ghost sometimes in the hallway. Sì, era lì, ma lo vivevamo come un fantasma. Go on. Yeah, like a ghost. And he was, you know, he's very small. He's very tiny. What I remember most is once I was walking by one of the studios, and I saw standing in front of a mirror this nice-looking girl looking in the mirror. And then I looked again, and it was Prince. It's true. Sta dicendo Ben che a un certo punto nello specchio, in uno degli specchi del Paisley Park, ha visto una donna bellissima e poi ha riconosciuto che era Prince. But do you remember that Prince called the glam slam for us? Do you remember there? Yes, yes, of course. Prince wanted to know who we were and what we were doing, you know. Prince was very interested in the music we were making. He loved Phil Upchurch, and he kept track of us when we were there. It's true. Eh sì, Prince era lì al Paisley Park mentre stavamo facendo le registrazioni, era molto interessato alle produzioni di Ben Sidran e poi una sera ci invitò al Glam Slam, che era il locale di Prince dove si suonava R&B e downbeat music. Allora, Blue Camus è il nuovo album di Ben Sidran, lo troverete prestissimo, praticamente fra un mese, su iTunes, se volete scaricare da iTunes la musica di Ben Sidran. Presto Ben sarà di nuovo in tournée e quindi Ben, I love you, you know, ti voglio bene come un fratello, hai fatto tanto per me, so I hope to see you soon, maybe in Italy, maybe in the States, I don't know, but anyway, we'll be in touch. We'll be in touch, JJ. Thank you, and all the best to you and your listeners. It's such a pleasure to be with you. Grazie a Ben Sidran. Il brano si intitola Blue Camus, è proprio quello che ha dato il titolo a questa nuova fantastica produzione targata Ben Sidran. Noi ci risentiamo il prossimo weekend, sempre qui su Radio 24. A tutti voi buona settimana, buon lavoro e naturalmente buona musica da JJ Telesforo. Thank you, Ben. Down on the Dorset side, where the river's just a muddy slide, there's a little slip away where the elk.